La leggenda delle onde. C'era una volta ai vecchi tempi, in questa città di Novgorod, un giovane. Era solo un ragazzo, come te. Qual era il suo nome? Il suo nome era Zanko e passeggiava in questa spiaggia suonando la sua chitarra tutto il giorno. Zanko era molto povero, non aveva nemmeno un centesimo, a parte ciò che le persone gli davano quando suonava la sua chitarra per farle ballare. Zanko crebbe fino a diventare un ragazzo forte e bello, ma non aveva mai osato ballare con nessuna ragazza perché non aveva soldi per sposarsi o portarla fuori a cena. Zanko viveva da solo con la sua chitarra e si accontentava di mezza pagnotta quando non riusciva a ottenerne una intera. A volte erano solo lui, la sua chitarra e il mare. Zanko amava il mare. Una sera alcuni pescatori gli chiesero di guardare le loro reti sulla spiaggia. Mentre loro andavano a prendere il pesce pescato per venderlo nella piazza di Novgorod, Zanko si sedette sulla riva, su una roccia, suonò la sua chitarra e cantò. Io canto per te, oh bel mare, mentre ti guardo ondeggiare. Salutami, bel mare, beato mi sento, sei qui con me. E mentre cantava, vide un mulinello nel mare. E da questo emerse la testa di un grande uomo con i capelli blu e una corona d'oro. Sapeva che il grande uomo era l'imperatore del mare. Le piccole onde correvano via da lui in tutte le direzioni, mentre usciva a grandi passi dall'acqua. Zanko di Novgorod, hai suonato e cantato molti giorni in riva al mare. Le mie figlie amano la tua musica e anche a me piace. Getta una rete nell'acqua e ritirala, e le acque ti pagheranno per il tuo canto. E se sei soddisfatto del pagamento, devi venire a suonare per me nel verde palazzo del mare. Detto ciò, l'imperatore del mare scese di nuovo nelle acque profonde. Le onde si chiusero su di lui con un ruggito. Beh, non c'è nulla di male nel provare. Gettò una rete nel mare e poi cominciò a tirarla fuori dall'acqua argentata. La rete uscì senza fatica, gocciolante e scintillante alla luce della luna. Non c'era niente nella rete. E poi, proprio mentre l'ultimo pezzetto della rete stava arrivando a terra, vide qualcosa, quadrato e scuro. Lo tirò e scoprì che era uno scrigno. Aprì lo scrigno ed era pieno di pietre preziose, verdi, rosse, dorate, che brillavano alla luce della luna. Prese il forziere e lo mise in un posto sicuro. Per tutta la notte rimase seduto e, guardato dalle reti, suonò e cantò. Al mattino i pescatori tornarono e gli diedero una pagnotta intera per aver controllato le loro reti. E questo sarà il mio ultimo pasto da povero. Zanko entrò nella città, dove vendette alcune pietre e con quello che ottenne allestì uno stand nel mercato. Le piccole cose ne portarono di grandi e presto divenne uno dei commercianti più ricchi di Novgorod. E ora ogni ragazza della città guardava Zanko con dolcezza. Ma nonostante la sua buona fortuna, Zanko non cambiò. Il suo amore per il mare di Volkov rimase immutato. Ogni giorno prendeva la sua chitarra e suonava e cantava in riva al mare. Non c'è nessuna ragazza in tutto Novgorod bella come il mare. Si tolse una bella collana dalla tasca e la gettò in mare. Era un piccolo regalo per il mare che amava così tanto. Un giorno, mentre navigava su una nave nel Mar Caspio, improvvisamente arrivò una tempesta. Questo è tutto, la nostra fine! L'equipaggio si aggrappò a qualsiasi cosa e tutti tremarono per la paura. Zanko, tuttavia, rimase calmo. Adesso ricordo una vecchia promessa che ho fatto. È ora di onorarla. Con la chitarra in mano, balzò dalla nave nel blu del Mar Caspio. Le onde si chiusero sulla sua testa e poi, stranamente, la tempesta finì. La nave salpò senza intoppi e arrivò a destinazione, al sicuro, nel porto. Cosa successe a Zanko? Ah, Zanko! Zanko andò giù e giù e ancora giù nell'acqua. Arrivò finalmente sul fondo del mare. E lì, sul fondo del mare, c'era un palazzo costruito con legno rosa. Zanko entrò dalle porte del palazzo. Dentro c'era una grande sala e l'imperatore del mare sedeva nella sala, con la sua corona d'oro in testa e i capelli blu che gli fluttuavano intorno nell'acqua. Ah, Zanko, hai preso quello che ti ha dato il mare? Ma ci hai messo molto tempo nel venire a cantare nel palazzo del mare. Grande imperatore, perdonami. Canta ora. E Zanko suonò la sua chitarra e cantò. Io canto per te, o potente re, l'imperatore del mare. Le onde son tue, tutta l'acqua e il sale e il pesce. Io canto per te e per tutto il tuo splendido mare. Io guardavo le sue onde, mi hanno salutato. O splendido mare, e io ti sono grato. Ballerò! Si alzò in piedi come un alto albero nell'atrio e cominciò a danzare. Il fondo del mare tremò con le danze del grande imperatore. Ballò finché non fu stanco e poi si sedette. Hai suonato bene e mi hai dato molto piacere. Ho tre figlie. Scegline una e sposala e diventa un principe del mare. Con tutto il rispetto, non penso che ci sia una donna che posso amare più di quanto io ami il mare. L'imperatore batté le mani e poi arrivarono le tre figlie dell'imperatore del mare. Erano belle, adorabili e graziose, ma Zanko fu ipnotizzato dalla più giovane. È bella come il mio mare. Lei lo guardò con occhi che brillavano come stelle riflesse nel mare. I suoi capelli erano scuri, come il mare di notte. L'imperatore del mare mise la mano di Zanko nella mano della figlia minore e si baciarono. E mentre si baciavano, Zanko vide che le aveva una collana al collo. Era la stessa che lui aveva buttato nel fiume una volta, come regalo per il mare. E Zanko rise di gioia e abbracciò la figlia minore dell'imperatore del mare e lei lo abbracciò. Presto si sposarono e l'imperatore del mare rise così forte alle nozze che tutto il palazzo tremò e i pesci nuotarono in tutte le direzioni. E dopo la festa, Zanko e la sua sposa andarono insieme nel suo palazzo e prima di addormentarsi, lei disse: «Oh, Zanko, non mi dimenticherai! Suonerai e canterai ancora per me!» «Non ti perderò mai di vista, mia cara! E per quanto riguarda la musica, canterò e suonerò tutto il giorno!» «Lo spero davvero!» Dicendo ciò, si addormentò. Anche Zanko si addormentò. Nel mezzo della notte, Zanko si girò nel letto e toccò la principessa con il piede sinistro. Ed era fredda come il ghiaccio del mese di gennaio. E quel tocco freddo lo svegliò e giaceva sotto i cieli di Novgorod, in riva al mare. Oh, nonno, cosa gli è successo dopo? Ci sono molte storie. Alcuni dicono che sia andato in città e che sia diventato un mercante, ma credo che abbia preso la sua chitarra e nuotato in mezzo al mare e che sia tornato di nuovo sott'acqua alla ricerca della sua piccola principessa. Dicono che l'abbia trovata e che viva ancora nei palazzi rosa del fondo del mare. E quando ci sono grandi onde, si sa che Zanko sta suonando la chitarra e cantando e che l'imperatore del mare sta ballando la sua tremenda danza laggiù, sul fondo, causando le onde. Cosa pensi che sia successo? Anch'io penso che sia tornato dalla sua principessa. Oh sì? E perché? perché questo è un lieto fine e, come dici tu, ogni storia ha bisogno di un lieto fine. E ricorda, se non è un lieto, non è la fine.